son pronte per spiccare il volo, ma tu per rifugiarti dentro ad un pensiero che faccia di un tuo giorno ancora un altro giorno, lasciandoti da sola a tremare al buio, a piangere due lacrime di cristallo. Chiederai consiglio al freddo dei tuoi occhi, perché hai dimenticato anche il tuo dolore, perché ti guardi dentro e ti senti spettro. Da solo contro un muro, credi non sono vero. Da solo contro un muro, credi non sono vero. In un mattino senza ricami, conosco quello sguardo, stai per attaccarmi. Dimentichi la gioia dentro le tue dita, nascondila al più presto dentro a una fatica, e puoi cambiare odore alla tua pelle, ma tu non lo farai, tu non ci credi, perché ti guardi dentro e ti senti spento. Le aquile son pronte per spiccare il volo, tu per rifugiarti dentro ad un pensiero che faccia un tuo giorno ancora un altro giorno, lasciandoti da solo a tremare al buio.